English 24. Un saluto da Marta Cagnola. Da Giulia Crivelli. In questa puntata ci dedichiamo alle elezioni inglesi. No, non preoccupatevi, non ne parleremo come hanno fatto tutti i nostri giornali radio, non torneremo sui risultati delle elezioni. Noi facciamo un passo indietro perché con queste elezioni la Gran Bretagna ha scoperto qualcosa che gli altri paesi hanno già sperimentato con alterne fortune, cioè i dibattiti televisivi, in uno stile estremamente British. Quindi noi andremo a sentire questa sera tre estratti dei tre candidati. Andiamo a sentirli uno per uno in meno di un minuto dei loro interventi nei dibattiti televisivi per sentire un po' come parlano, come parlavano in campagna elettorale questi tre candidati, partendo da Gordon Brown. When the banks collapsed, I took immediate action to stop crisis becoming calamity and to stop a recession becoming a depression. And as a result of that, Britain is now on the road to recovery. But as we meet tonight, economies in Europe are in peril, and there is a risk of dragging us into recession. So I'm determined that nothing will happen in Britain that will put us back in that position. And I want to set out my plan and why this year is so important. Support the economy now, and you will ensure that there are jobs and a recovery, and ensure that we can have the resources for deficit reduction. Shrink the economy now, as the Conservatives would do, and they risk your jobs, your living standards, and tax credits. So it's not my future that matters, it's your future that's on the ballot paper next Thursday. And I'm the one to fight for your future. Eccolo qua Gordon Brown, che ovviamente si riferiva al suo operato passato, è l'unico dei tre che può farlo. Sì, è stato veramente, chi di voi magari ha guardato qualche canale sul satellite, ha sconvolto la Gran Bretagna. Questo era il terzo, il quarto dibattito tra i tre, l'ultimo, e è stato veramente una novità, e devo dire c'è stato molto fair play. Noi purtroppo in Italia non abbiamo, tu dicevi prima, tanti paesi tranne l'Italia, noi non li abbiamo avuti questi dibattiti. E qui Gordon Brown, come dicevi tu, si rifà a quello che ha potuto fare, visto che era lui in carica durante questa grande recession che c'è stata. Infatti l'argomento è l'economia. Ho reagito immediatamente, ho preso immediatamente delle misure quando è scoppiata questa crisi. Questo è il cavallo di battaglia in questo intervento di Gordon Brown. Poi avete sentito l'accento pulito inglese, quindi I took immediate action, e poi spiega to stop crisis becoming calamity, cioè secondo lui è riuscito a impedire che una crisi diventasse una calamità, to stop a recession becoming a depression. Ecco, la differenza è sottile, ma per gli economisti è importantissima. Cioè una recession è comunque qualcosa di cui si intravede la fine perché appartiene al ciclo economico, la depression invece è qualcosa, per esempio, come quella che c'è in Giappone da tantissimi anni, di cui non si intravede la fine. Secondo lui, taking immediate action, cioè facendo subito delle cose, ha evitato che da recession la Gran Bretagna passasse in una depression. Infatti continuiamo a chiederci quando finirà questa crisi. Secondo lui la Gran Bretagna sta per riprendersi. Lui sì, qui è ottimista, we are on the road to recovery, naturalmente to be on the road to si può usare anche in modo figurato, recovery può anche essere per esempio un recupero psicologico, in questo caso naturalmente è un recupero economico. E però lui c'è sempre questa differenza, no? La Gran Bretagna, la grande isola, e il continente Europe, però economies in Europe are in peril. In peril è pericolo, avrebbe potuto dire are in danger. Peril è un vocabolo un po' più sofisticato, e qui noterete anche magari rispetto a discorsi del passato che abbiamo sentito in America, comunque la sofisticatezza, insomma, del linguaggio politico dei politici britannici è sicuramente superiore a quella di quelli americani, per esempio. Però dobbiamo dirlo, sono questi cattivoni di europei con le loro economie europee che mettono in pericolo le azioni della Gran Bretagna, rischiano addirittura di trascinare la Gran Bretagna, sì, verso... To drag vuol dire proprio tirare, quindi addirittura lui dice the risk, il fatto che le economie europee sono in peril, they risk to drag us into recession again. Cioè secondo lui, appunto, we are on the road to recovery, recession è alle nostre spalle, però c'è il pericolo. Tra l'altro sottolinea, io non mi sto battendo per me stesso ma per voi. It's not my future that matters, perché ovviamente invece nel momento in cui lui parlava era il suo futuro politico anche in ballo. It's your future that's on the ballot paper next Thursday. È il vostro futuro, che on the ballot paper è la scheda elettorale, diciamo noi, appunto nei prossimi giorni, perché I am the one to fight for your future. Io sarò qui però con combatto per il vostro futuro. Lasciamo Gordon Brown, andiamo a sentire invece la replica di David Cameron. Our economy is stuck in a rut and we need change to get it moving. Let me tell you what I would do. First, we've got to reward work and tackle welfare dependency. Second, we've got to fix our banks, tax them to get our money back, regulate them properly and get them lending again. Third, we've got to start making things again in this country. It's no policy to just borrow from the Chinese and buy goods made in China. Fourth, we've actually got to get value for money in our public services. I want good public services for everyone, and we can only do that if we save and stop the waste. Let me tell you one thing I wouldn't do. With Greece so much in the news, I can guarantee you that I would never join the euro, and I'd keep the pound as our currency. Ancora questi europei. Devo dire che di qualunque partito siano gli inglesi, il punto fisso è che noi non siamo come l'Europa. Ma partiamo da Euroskeptics. Partiamo dall'inizio. È normale. Gordon Brown dice: grazie al mio governo siamo riusciti a resistere alla crisi. Invece David Cameron dice: no, noi siamo stuck, dobbiamo dare una mossa all'economia. E qui di nuovo questa parola change, no? Anche qua sembra sempre che tutti vogliano riapplicare a modo loro la ricetta di Obama, quindi we need change to get it moving again, quindi abbiamo bisogno di un cambiamento. To get it moving, questo è un phrasal verb, to get it, e poi usando il gerundio, to get it moving, or to get going, to get it smile, possiamo aggiungerci qualsiasi altro verbo, comunque vuol dire per fare in modo che si ricominci a muoversi. E quindi dice: let me tell you what I would do. Punto per punto. Sì. Il primo punto. Ecco, qui naturalmente la grande differenza in Gran Bretagna è su questa parola che ormai usiamo abitualmente anche in italiano, che è il welfare. Cioè, che con welfare poi in realtà si intende tutto il denaro, la spesa pubblica, che quindi può essere ospedali, pensioni, eccetera. E lui soprattutto dice: I want to tackle welfare dependence. Questo era un vecchio cavallo di battaglia anche della Thatcher. Cameron è a tutti gli effetti un erede della Thatcher. To tackle vuol dire prendere di mira, ma per correggere, cioè non è soltanto guardare, è proprio io prendo quella cosa e la voglio correggere. Quindi che cosa vuol fare lui? Cercare di diminuire questa dipendenza da welfare che hanno, secondo lui, con i sussidi e con altri meccanismi molti britannici. E poi ancora le banche. Ah, le banche ce l'hanno proprio tutti. Quindi fix our banks, tax them. Fix, to fix vuol dire riparare, quindi non fissare ma riparare, quindi ripararle, che vuol dire anche tassarle, regulate them properly, regolarle meglio, e poi get them lending again, come prima, get them, e di nuovo il gerundio, e qui è naturalmente to lend, prestare. I britannici hanno il problema che hanno quasi tutti gli europei, che le banche hanno chiuso i rubinetti. E qui non solo tutto il mondo è paese, non solo le banche, anche il rapporto con la Cina. Povera Cina, anche qua. E questo è davvero forse il punto un po' più utopistico, cioè lui dice: we've got to start making things again in this country, because it's no policy to borrow from the Chinese, borrow, lend, prestare, borrow, prendere in prestito, quindi prendere in prestito denaro, e poi buy things made in China. La Gran Bretagna, lo sappiamo, si è trasformata da un'economia dove c'era molta industria a un'economia del terziario. Praticamente non si fa più niente in Gran Bretagna e il risultato è che le merci sono tutte made in China. E poi questo punto controverso, noi lo diciamo con il sorriso, sempre prendere le distanze dall'Europa nel momento soprattutto della crisi greca. I will never join the euro. Cioè, io vi posso promettere one thing I wouldn't do, with Greece so much in the news, adesso che si parla così tanto di Grecia, io non entrerò mai nella zona euro, e I will keep the pound, questo sacro pound, la sterlina, as our currency, come nostra moneta. La sorpresa di questi dibattiti però è stata Nick Clegg, che era un po' l'outsider e ha fatto molta bella figura in questi dibattiti televisivi. Sentiamo allora le sue ricette per l'economia. Tonight's debate is about you, about your job, the taxes you pay, your family, about the prosperity of our economy. We need to do things differently to build a new, stronger and fairer economy. The way they got us into this mess is not the way out. So we need to be frank about the cuts that will be needed so we can protect things like schools and hospitals. We'll need to break up our banking system so that irresponsible bankers can never again put your savings and your businesses at risk. We have to rediscover our passion for building things, I think we've got to do things differently. Allora, lui, l'outsider, il primo, Gordon Brown, ha parlato di quello che ha fatto, rivendica il merito di aver portato la Gran Bretagna a intravedere la fine della crisi. David Cameron dice no, bisogna dare una mossa all'economia. E cosa dice invece Nick Clegg? Nick Clegg è fantastico perché lui usa la parola change, ma dice we need to do things differently, dobbiamo fare le cose in un modo diverso. The way they got us, they... sostanzialmente il Labour, ma secondo lui c'è anche la compiacenza dell'opposizione di Cameron, the way they got us into this mess, it's not the way out. Quindi il modo in cui ci hanno portato in questo mess è proprio casino, la traduzione giusta è quella, it's not the way out, non è il modo per uscirne. E anche qui si parla di tagli e di banche. Ah, queste banche, quindi irresponsible bankers, questi banchieri irresponsabili, e lui dice fare in modo che they can never again put your savings at risk. To put something at risk vuol dire mettere qualcosa in pericolo, mettere qualcosa a rischio, i savings sono i risparmi, quindi è chiaro che quello, ripetiamo, siccome la Gran Bretagna è stata una delle prime economie a trasformarsi in economia finanziaria, hanno poi moltissime persone, come negli Stati Uniti, hanno sofferto del tracollo del sistema finanziario. Però ci sono anche cose da fare, ad esempio ritrovare la passione e la voglia, la volontà di fare le cose. E qui torniamo a quello che diceva Cameron, cioè tornare all'industria, quindi dice we've got to have got to vuol dire we must, è un altro modo di usare il verbo dovere, quindi we've got to rediscover a passion for innovation and for building things. Sapete che for vuole anche qua la forma il gerundio, quindi for building, per costruire le cose. Morale, we've got to do things differently, dobbiamo fare le cose diversamente. Abbandoniamo i candidati alle elezioni inglesi che ci hanno tenuto compagnia tanto nelle notizie di questi giorni, perché il nostro tempo radiofonico è finito qui. Vi ricordo l'appuntamento invece con English 24 in edicola. Ringrazio Filippo Aureggi in regia, da Marta Cagnola e Giulia Crivelli. Un saluto e l'appuntamento alla prossima puntata.